Come noto, oggi c'è il nuovo che avanza. Come per ogni cosa che avanza, c'è un momento in cui non si individua ancora bene come sarà, e c'è un momento in cui qualcosa si comincia a intravedere. Per esempio, c'è la cultura di cui è portatrice Irene Pivetti tramite la rivista da lei diretta Quaderni della Consulta Cattolica, organo della Lega Nord. Un gene, appena un gene di questa cultura, è rappresentato da un saggio intitolato Osservazioni sull'evoluzionismo, ove si può leggere due affermazioni fondamentali, già che ci siamo anche fondamentaliste. E la prima di queste affermazioni dice che Darwin ha sbagliato, e la seconda dice che il modello evolutivo è inconciliabile con la fede cattolica. La prima affermazione ci porta dritti dritti al creazionismo, ovvero alla tesi secondo la quale innanzitutto l'intero universo, munito di tutti gli optional, è stato creato in 6 giorni di 24 ore, all'incirca 6.000 anni or sono, e secondariamente l'attuale stato del pianeta è dovuto alla grande catastrofe del diluvio universale, precisamente quella catastrofe da cui Noè, con scarafaggi, formiche, spirocchette pallide, rinoceronti e altri amici dell'uomo, se l'è cavata. Il creazionismo viene ovviamente da lontano. In una delle sue forme più oppressive e virulente può essere fatto tuttavia risalire ai presbiteriani scozzesi emigrati in America nel XVIII secolo, in quella stessa America che viene per l'appunto tanto citata dalla Pivetti e dal suo entourage, oppositori ahimè compresi. Il potere di questi creazionisti è arrivato a far sì che nella maggior parte degli stati del sud vigesse una legge che proibiva l'insegnamento dell'evoluzione biologica nelle scuole finanziate dallo Stato. E non stiamo parlando di vetuste vicende, stiamo parlando del nostro secolo. Il tribunale di Dayton, nel Tennessee, nel 1925 condannò un insegnante a $100 di multa per aver trasgredito a questa legge, che peraltro rimase tale quale in vigore fino al 1968, quando, a seguito di 2 nuovi processi contro insegnanti, venne dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema. Ciò, tuttavia, non ha impedito che, attecchendo nell'estrema destra, i creazionisti acquistassero un potere crescente nella società americana. A riprova ci sta il fatto che in stati come la California, l'Arkansas, la Louisiana e il Texas i creazionisti hanno ottenuto che il verbo creazionista venisse insegnato nelle scuole alla pari e per lo stesso preciso tempo di quanto veniva insegnata l'evoluzione biologica. Ronald Reagan, uno che, in fatto di epistemologia doveva avere poche idee ma chiare, Ronald Reagan durante la campagna elettorale del 1980 ha trovato il tempo di dire che non tutto in Darwin filava liscio e che se le sue teorie venivano insegnate nelle scuole, allora, testuale, anche la teoria biblica della creazione, che non è una teoria ma la storia biblica della creazione, deve essere insegnata. Ma non contento di ciò, bollò come opinioni sovversive finanziate dallo Stato un programma per l'insegnamento dell'evoluzione biologica negli ultimi anni delle scuole elementari, un programma che peraltro non era stato formulato da Che Guevara, ma bensì dalla National Science Foundation. Tutto ciò dimostra il grado di pericolosità di questo movimento di estrema destra, che non differisce dal nazismo nel suo programma di costringere il mondo a un nuovo medioevo, e che, anche se non usa la ruota, la forca e il rogo, solamente perché non può ancora farlo, non rifugge da qualsiasi forma di violenza morale e poliziesca per imporre a tutti ciò che debbono credere. Queste ultime parole non sono mie. Non sono nemmeno di Occhetto, ma sono di Mario Ageno, il nostro grande biofisico, morto nel dicembre del 1993, alle cui Radici della biologia, un libro uscito nell'86, debbo la gran parte di queste dettagliate informazioni. E con ciò abbiamo sistemato la prima delle affermazioni. La seconda affermazione, contenuta in questi quaderni della Consulta Cattolica, la seconda affermazione riguardava l'inconciliabilità del darwinismo con la fede cattolica. Orbene, anche le ricerche di Ruggero Baccone furono giudicate inconciliabili con la fede cattolica, costando così allo scienziato anni di galera. Anche l'affermazione sulla rotondità della Terra costituì un ottimo motivo per mandare Cecco d'Ascoli a rogo. Anche la sospensione di tutti gli esperimenti di fisica fu intimata nel XIV secolo dalla Chiesa cattolica, ai re di Francia e di Spagna. Anche l'entrare in un luogo consacrato durante il periodo mestruale fu considerato sacrilego da Teodoro di Canterbury, che pur passa per un accomodante revisionista. Anche le costolette di Montone e le corse dei cavalli furono oggetto dell'anatema del vescovo Porfirio, per la miseria. Anche l'uso delle forchette e dei ventilatori fu giudicato inconciliabile con la fede cattolica, per non parlare del taglio dell'Istmo di Panama e del caso più ben noto della rivoluzione copernicana. Per cui, forti di queste passate esperienze, all'angosciata constatazione dell'inconciliabilità tra darwinismo e cattolicesimo, possiamo ben far seguire una ferma e convinta esclamazione: ebbene sì, sono inconciliabili e chi se ne frega.